Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Titola Ragazzo italiano ed è l'opera prima di Gian Arturo Ferrari, pubblicato da Feltrinelli. Quando parlo di opera prima mi riferisco però al fatto che è un romanzo, perché sicuramente Gian Arturo Ferrari è un uomo molto conosciuto nel mondo dell'editoria. Ora però ha deciso di debuttare con un romanzo, che è un romanzo di formazione. Racconta la storia di un ragazzo, Ninni, diciamo a partire dalla fine degli anni 40 fino ai primi anni 60, e attraverso la storia di questo personaggio seguiamo anche un po' quella che è stata la storia dell'Italia, soprattutto la storia sociale, lo sviluppo sociale dell'Italia di quegli anni. Ferrari, allora, innanzitutto come è nata l'idea del personaggio di Ninni? Ma in parte, e solo in parte, il personaggio di Ninni è autobiografico, naturalmente, e per il resto invece è una sintesi di quel mondo così come l'ho visto io, il mondo dell'immediato dopoguerra, che poi è diventato il mondo non già del miracolo economico, ma della ricostruzione, che è stata lunga e molto faticosa, e poi il primo aprirsi della stagione di prosperità che avrebbe poi contraddistinto l'Italia per un periodo abbastanza lungo. Quindi è una traversata attraverso quegli anni ed è una traversata anche attraverso luoghi e antropologie, vorrei dire, diverse. C'è una parte che si svolge ancora in un mondo rurale, che è quello emiliano, poi il mondo della prima rivoluzione industriale che io vidi nel nord della Lombardia, in una cittadina del nord della Lombardia che nel romanzo si chiama Zanegrate, mondo durissimo, terribile, e poi il mondo invece di Milano, che era insieme la seconda rivoluzione industriale e anche una città fondamentalmente commerciale, dinamica e aperta al futuro. E infatti questo romanzo si segue appunto il passaggio, come dicevamo, dalla società agricola contadina alla società industriale attraverso questi luoghi che, lo precisiamo, sono di fantasia, perché Ninni è un po' diviso fra diciamo la sua vita dell'autunno-inverno, primavera, chiamiamola così, a Zanegrate vicino Milano, e poi invece la vita estiva insieme alla nonna, la vita più della libertà anche personale a Querciano, anche questo è un nome di fantasia, che è un paesino appunto dell'Emilia. Anche i personaggi riflettono un po' queste separazioni, perché non so, penso al fatto che la nonna di Ninni incarni un po' appunto i valori anche della società contadina. Il padre di Ninni invece ha più una mentalità pragmatica, industriale, e poi Ninni sarà quello che invece si ambienterà e si affermerà nella Milano, che però è anche e soprattutto la Milano culturale. Quindi anche attraverso i personaggi c'è questo passaggio. Sì, sicuramente. La nonna è anche un personaggio che sicuramente, come dice lei, è legato al mondo rurale. Lei è una piccola proprietaria terriera, è una classe sociale che viene eliminata in quegli anni, perché le scelte di fondo che l'Italia repubblicana compie sono quelle di eliminare questa forma di proprietà e la mezzadria che era collegata a questa proprietà. Il padre è invece un impiegato tecnico, è un uomo di tempi e metodi, quindi un tipico protagonista, come dire, della cultura industriale, e invece Ninni, che mano a mano cresce poi e alla fine del libro è un come si può dire, un post-adolescente, insomma è sulla soglia ormai dell'università, Ninni invece si costruisce una vita all'interno della cultura, cosa che è possibile in realtà fare quasi solamente a Milano, insomma, cioè solo Milano ha un ambiente e un background e un mondo dentro il quale si può fare una scelta di questo genere. E veniamo dunque anche ai cambiamenti emotivi che diciamo Ninni attraversa nella sua vita. Prima lo vediamo appunto bambino, tra l'altro il romanzo è diviso proprio in tre macro parti: il bambino, il ragazzino e il ragazzo. Da bambino Ninni ha un grande problema, è balbuziente. In questo visto, per esempio, suo padre è molto sferzante. Questa è una figura di padre un po' dura. Non ha un bellissimo rapporto Ninni con il padre. Sembra quasi che suo padre non capisca proprio la sua sensibilità anche. Ma tutti i padri dell'epoca erano così, eh? La figura del padre è in parte derivata, come tutto il resto del libro, come dicevamo, da un sfondo autobiografico, ma è anche rappresentativo di un intero mondo. Gli uomini, e con uomini intendo dire in questo caso i maschi adulti, per così dire, di quella generazione erano persone dure, erano cresciute sotto il fascismo, erano abituate a un rapporto interpersonale completamente diverso da quello che abbiamo noi oggi. Oggi noi siamo molto più morbidi, molto più affettuosi, vorrei dire. Quel mondo invece era un mondo severo e anche abbastanza cupo, ma al di là dei singoli personaggi era proprio un fenomeno sociale. Insomma, è un po' un figlio dei tempi la figura del padre. Sì, ma tutti sono un po' figli dei tempi, i protagonisti del romanzo, sono tutti collocati lì, però certo sì, il padre è moltissimo naturalmente. Ecco, Ninni va naturalmente a scuola essendo un bambino e anche qui vediamo una scuola molto diversa chiaramente da quella di oggi, una scuola in cui le classi sociali contano tantissimo. Per esempio quando va alle elementari nella prima fila si siedono i figli delle persone insomma di un certo livello economico e culturale, poi via via insomma tutti gli altri, e chiaramente lui è seduto sostanzialmente in fondo, lui sia perché balbetta sia per altre ragioni è sempre un po' escluso, o meglio si sente anche escluso, lo escludono anche proprio fisicamente. Sì, la scuola, che è uno degli assi fondamentali del libro, forse anche vorrei dire quasi l'asse fondamentale, considerato che anche i personaggi femminili, la nonna, la mamma, sono maestre, quindi appartengono tutti al mondo della scuola. La scuola, dico, pare nel libro con due tonalità e due valori diversi. È sostanzialmente, per dirla in breve, molto peggio di quello che è la scuola d'oggi, soprattutto nei primi anni della scuola elementare che il bambino frequenta a Zanegrate, appunto per il motivo che diceva lei, perché è la matrice di una struttura sociale rigidissima, divisa, per dirla chiaramente, in classi. I bambini sono disposti nei banchi a seconda del loro censo. E poi invece le scuole di Milano, sia gli ultimi anni delle elementari, sia poi le medie e soprattutto il liceo, sono esattamente l'opposto. Cioè sono scuole, devo dire, migliori di quelle che ci sono oggi, nel senso che erano scuole altissimamente formative, molto selettive, molto più selettive della scuola odierna, ma molto costruite su un'idea sostanziale di merito, che poi invece forse, si è un po' andata perdendo. E rimane comunque il fatto che la scuola nel dopoguerra italiano e negli anni della rinascita dell'Italia ha avuto un ruolo centrale e fondamentale. Ecco, c'è uno sguardo un po' nostalgico da parte sua in questo, perché dice la scuola all'epoca così, mentre in tutto il resto del romanzo non mi pare che ci sia tutta questa nostalgia di quei tempi, forse solo per la scuola? Ma è difficile dire, no, nostalgia generale di quei tempi non ce n'è per niente. E io sono un progressista, un fermo progressista, e credo che il presente sia meglio del passato e sia peggio del futuro. Quindi non rimpiango nulla di quel mondo, che era un mondo per infiniti versi molto peggiore del nostro. La scuola, io sono stato molto legato alla scuola, ho fatto più avanti poi nella mia vita, prima di dedicarmi all'editoria, come ho fatto il professore universitario, quindi insomma è il mondo che è stato in larga misura mio. E sì, lì forse sì, in qualche cosa era migliore, però devo dire che anche oggi la scuola pubblica italiana è una delle più grandi risorse del paese, ed è, devo dire, sottovalutata, sottostimata, sottoconsiderata. E arriviamo al momento in cui Ninni arriva a Milano, perché poi insomma la famiglia si trasferirà a Milano. Questa è la vera grande svolta nella vita di questo personaggio, perché gli permetterà anche di realizzare quelle che sono un po' le sue tendenze, la sua indole, la voglia di studiare, la passione per i libri, per esempio. È molto bella la scena in cui appunto Ninni arriva a Milano, lui si aspetta di trovare la nebbia e a Milano quel giorno la nebbia non c'è. Poi per esempio va in giro con i suoi genitori e rimane completamente affascinato dall'albergo diurno Cobianchi, perché insomma ai suoi occhi è qualcosa di straordinario. Ecco, che impatto ha nella vita di Ninni l'incontro proprio con Milano, con questa città? Beh, Milano è la città dei sogni, diciamo, dei sogni realizzati, Milano è totalmente diversa dai mondi che lui ha conosciuto, sia quello campestre, agricolo, rurale dell'Emilia, sia quello terribile da prima rivoluzione industriale di Zanagrati. Milano è il mondo, il migliore dei mondi possibili, perché ha soprattutto energia, forza, proiezione verso il futuro, ricchezza, ricchezza dico mentale, culturale, spirituale. È un mondo, io devo dire la verità, come autore dico, sono milanese, sono sempre vissuto da allora a Milano, tranne gli anni dell'università che ho fatto a Pavia, ma insomma, e devo dire che ho sempre amato moltissimo Milano e la amo tuttora. Vede, Milano è l'unica città italiana grande, molto grande, a non essere stata una città di corte. Milano non ha mai avuto una corte. E questo secondo me è il suo pregio migliore. Non ha nulla, non ha nemmeno un'ombra di cortigianeria. È una città a volte anche un po', non dico rozza, ma insomma brusca, ma però è una città straordinaria. E devo dire ha conservato questo spirito. Anche oggi Milano è assolutamente all'avanguardia in Italia da questo punto di vista. Certo, adesso il coronavirus eccetera la stanno tartassando non poco, ma io sono assolutamente convinto che Milano ce la farà e manterrà questa sua identità profonda. Ecco, la Milano in cui arriva Ninni nel secondo dopoguerra è appunto la Milano del centro, del Duomo, dell'albergo diurno Cobianchi, delle case invece un po' più modeste della prima periferia, diciamo della prima cerchia della periferia, ma anche la Milano dei campi delle baracche, perché quello è stato un periodo in cui a Milano arrivavano un po' da tutte le parti d'Italia. E c'è un momento del romanzo in cui si parla proprio di queste baracche, di queste baraccopoli, definiamole così, e dell'impatto che hanno su Ninni. Tutti nel dopoguerra il cambiamento profondo del dopoguerra fu che sostanzialmente i contadini, che erano la gran parte della popolazione italiana, l'Italia era un paese fondamentalmente agricolo, decidono di voler vivere in città. Di voler venire lì perché ci sono più opportunità. Non è che vengono a Milano perché non hanno da mangiare a casa loro, perché muoiono di fame a casa loro. Vengono a Milano perché pensano che il futuro sia molto più aperto a Milano che a casa loro. Questa è la ragione. Questa è la ragione per cui vengono. E vengono in ogni modo. Le baracche le ho viste io con i miei occhi quando ero piccolo. Però appunto quella gente, quelli che stavano nelle baracche, quelli che si appendevano ai tram fuori alla mattina, ai tram c'erano appesi grappoli di gente che io non so come facessero a restare su e a non cascare, erano tutti segni di questa grande volontà di lasciarsi alle spalle un passato per molti aspetti, per ciascuno di loro, difficile, durissimo, la guerra, tutto il resto. Volevano uscire, volevano il futuro e l'hanno avuto. Un'ultima domanda. Ragazzo italiano è uno dei 12 candidati al premio Strega. Da scrittore esordiente, ma comunque da grande conoscitore naturalmente del mondo dell'editoria, come vive la partecipazione a questo premio? Ma credo come tutti gli altri che ci partecipano. Cerco di raccogliere i voti che mi potrebbero rendere possibile il passaggio nella cinquina, che è il gradino prossimo. Poi naturalmente bisogna vedere come vanno le cose appunto del coronavirus e tutto il resto, ma comunque niente, sto vivendo in questo modo esattamente come tutti gli altri autori che ho visto nella mia lunga vita editoriale affrontare un premio Strega. Grazie a Gian Arturo Ferrari, ora in libreria, grazie a lei con Ragazzo italiano pubblicato da Feltrinelli. Il cacciatore di libri. Waited and waited, but I just couldn't take it anymore. si intitola La nuova stagione, dell'ultimo romanzo di Silvia Ballestra pubblicato da Bompiani. Silvia Ballestra è una scrittrice molto nota, vi cito solo alcuni titoli così per rinfrescare un po' la memoria: Compleanno dell'Iguana, Gli Orsi, Nina, I Giorni della Rotonda e poi anche il famosissimo La Guerra degli Antò. Dico famosissimo anche perché da questo libro era stato tratto l'omonimo film. Ora, dicevo, Silvia Ballestra è in libreria con La nuova stagione, un romanzo ambientato nelle Marche. Le protagoniste sono due sorelle, Nadia e Olga, che ritornano, diciamo, nella terra d'origine perché devono vendere dei terreni. Ma tutta la storia è raccontata dal punto di vista della cugina. Diciamo che la vendita di questi terreni è un po' l'occasione per fare il punto sulla vita di Nadia e di Olga e su tutto quello che riguarda appunto anche la storia di questi terreni e della loro vendita. Allora, Silvia Ballestra, come è nata innanzitutto l'idea di questo romanzo che, lo sottolineo ancora una volta questa parola, terra e terreni, perché ha veramente un fortissimo legame sia con la terra, le Marche, sia proprio con il terreno, cioè quello che magari si è ricevuto in eredità dai genitori, dai nonni, eccetera, e che però a un certo punto della vita magari a noi non interessa più perché non facciamo la vita contadina. Sì, nasce anche un po' sulla scia di un libro precedente che avevo scritto in occasione del terremoto, seguendo il salvataggio degli animali in queste zone, insomma, fra le Marche, l'Umbria, il Lazio e l'Abruzzo durante i giorni del terremoto, e per raccontare un territorio che non è molto noto avevo appunto messo insieme una serie di testimonianze e anche di racconti su quel territorio, quindi incentrato poi sui Monti Sibillini, che fanno di nuovo da sfondo qui anche in questo nuovo romanzo, quindi nasce un po' sulla scia del lavoro immediatamente precedente e ancora appunto con la volontà di raccontare di nuovo un territorio, una terra, e anche però di fare proprio storia nel senso di passato prossimo, di passato che è appena avvenuto, che riguardasse però anche il nostro rapporto con la campagna, con la terra appunto, e quindi nasce soprattutto da questa spinta, da questo desiderio anche di confrontarmi con una dimensione appunto più rurale, più campagnola, in qualche modo anche più di montagna, perché queste montagne, questi sibillini sullo sfondo ci sono e sono monti magici e anche depositari di leggende che vanno indietro nei secoli di molto. Ecco, all'inizio del romanzo vediamo anche dei flashback sul passato della vita di Nadia e Olga, di queste due sorelle. Per esempio, il padre che faceva di tutto perché loro non si occupassero della terra, cioè le spingeva a fare altro nella vita. Era come un volerle escludere dalla campagna, dalla terra. Poi alla fine del romanzo si capirà anche che c'erano una serie di ragioni, ma per quanto possiamo dire, perché il padre ha questo atteggiamento così di allontanamento? Andate, fate qualcos'altro nella vita. Ma in generale perché appunto negli ultimi decenni comunque un po' tutto il paese, tutta l'Italia, che pure è un paese agricolo prevalentemente, lo è stato per secoli, la sua vocazione è proprio quella lì, cioè di produzione, poi lo vediamo anche nella produzione appunto enogastronomica, che è una delle cose forti di questo paese, però dopo essere stato appunto per millenni un paese legato alla terra, sappiamo bene che negli ultimi decenni invece ci siamo tutti un po' inurbati, come si dice, no? Siamo andati tutti a vivere in città e quindi c'è stato un allontanamento intanto generale, poi c'è stato anche un grande cambiamento in agricoltura con una grande rivoluzione che è quella della fine della mezzadria, che pure quello era un regime millenario e quindi si è passati a tutt'altro modo di coltivare la terra, un'agricoltura che è più agribusiness, che non insomma lavorare la terra come si è fatto per secoli, e poi perché quello lì è un ambito di lavoro molto maschile, cioè le donne in campagna hanno sempre lavorato, sempre con il solito poi doppio lavoro, cioè in casa e nei campi, però non si sono quasi mai occupate della gestione, cioè non hanno mai maneggiato, nemmeno quando erano proprietarie in prima persona, magari per eredità, come succede a queste protagoniste, però non hanno mai lavorato a livello decisionale in queste, poi adesso sono diventate vere e proprie aziende agricole, no? Però prima c'era o il padrone o il fattore. Certo, era un mondo molto aspetto maschile, appunto, molto. Le donne non contavano nulla, diciamo la verità, insomma. E infatti sia Nadia che Olga seguono la loro strada, fanno gli studi fuori appunto dalla loro terra, si affermano, e la vendita di questi terreni è anche l'occasione, come dicevamo, per fare un po' il punto sulle loro vite. Allora scopriamo alcune cose, lo scopriamo però dallo sguardo della cugina. Ecco, perché questo punto di vista, prima ancora di parlare della vita di Nadia e di Olga? Ma io, insomma, come mi capita spesso quando scrivo, faccio varie prove, in realtà provo prima in prima persona, poi in terza, cambio i tempi verbali, le riscritture sono tante anche per vedere appunto qual è il tono, per misurare insomma il calibro della narrazione, eccetera. Questo escamotage del narratore esterno che un po' sa, un po' racconta, però non è coinvolto davvero in prima persona, insomma è un espediente classico, così come è classica un po' la struttura del libro, perché è un romanzo, come si dice, a cassetti, nel senso che poi si apre anche su storie che non necessariamente sono quelle delle protagoniste, ma racconta anche le storie di altre donne in altri periodi che girano sempre comunque attorno alla vicenda principale. Sì, quasi un romanzo matrioska, appunto a cassetti, sì. Perché ci sono vari ambiti. Allora, un ambito è quello della vita, per esempio, passata di Nadia e di Olga. Ognuno ha fatto la sua vita, i loro amori, il fatto per esempio di suonare in una band, il teatro sperimentale, i tradimenti anche da parte degli uomini. Insomma, la vita che può aver avuto qualunque donna che, diciamo, nel momento in cui tu le inquadri nel romanzo hanno intorno ai 50 anni, insomma, è un po' anche una riflessione su quella che è stata la loro vita. Sì, c'è anche il racconto di giovinezze, per esempio con una permanenza a Londra, oppure a questa rock band, il teatro, come dicevi, quindi diciamo una vita in gioventù di grande sperimentazione, e poi diciamo una sperimentazione anche lavorativa a un certo punto, perché come le persone della mia generazione, quindi che hanno vissuto gli anni 80 e 90, poi sappiamo insomma che direzione ha preso il lavoro, soprattutto ahimè per le donne, all'insegna un po' della precarietà, del dover conciliare la famiglia con il lavoro e quindi accontentarsi di lavoretti a volte, o comunque di situazioni non troppo strutturate. Sì, è anche questo, insomma, il racconto in parte è un racconto anche generazionale, se vogliamo. Di nuovo, e infatti, perché penso ai miei primi libri, dico no, prima abbiamo citato La guerra degli Antò, insomma, che è sempre stata definita una saga un po' generazionale, cioè molto connessa anche alle persone che avevano quell'età in quel momento e quindi vivevano determinate situazioni. Questo romanzo anche in parte è un po' un romanzo generazionale. Anche con questo ritorno appunto verso i 40-50 anni alla terra d'origine, alla famiglia, come succede spesso, perché quando poi si riceve un'eredità oppure ci si deve occupare appunto delle sostanze, dei beni di famiglia, anche solo sgomberare un appartamento, qui si tratta di sgomberare un'azienda agricola, però insomma a un certo punto della vita capita spesso. Ecco, ma che rapporto hanno Nadia e Olga con la terra? Perché loro alla fine sono andate via dalla terra, proprio il terreno, diciamo così, da queste campagne, non ci hanno vissuto quasi sostanzialmente, e ci ritornano nel momento in cui devono vendere. Con che spirito? Ci ritornano nel momento proprio in cui devono separarsene, quindi ci tornano con lo spirito di persone che devono in qualche modo liberarsene, perché queste terre sono diventate una rogna. Infatti, perché si ha la sensazione che sia più una rogna che non, diciamo, rogna, che ci sia un distacco sentimentale, ecco. Oddio, però c'è pure il sentimento, perché poi insomma come tutti credo, insomma, siamo un po' combattuti, un po' contraddittori anche di fronte ai dilemmi che ci pone anche la situazione attuale, insomma la contemporaneità, nel senso che poi loro sono due sorelle, diciamo, che sono molto attente all'ambiente, sono delle conservazioniste, vorrebbero pure lasciare tutto insomma un po' com'è, anche un po' selvatico, che la natura riprenda un po' piede in quei posti che pure sono stati molto coltivati e molto in qualche modo anche industrializzati da quel punto di vista, però si trovano anche di fronte al fatto che non possono loro mantenere questa cosa, non possono permetterselo, e per perché appunto è una rogna, perché costa, perché comunque si pagano un sacco di tasse, ci sono un sacco di spese e soprattutto c'è la burocrazia, che è una cosa che giustamente loro cercano di vendere questo terreno, poi insomma arriveranno dei possibili compratori un po', diciamo, sui generis, ma si ha la sensazione di essere veramente schiacciati dalla burocrazia. Sembra quasi a un certo punto una vicenda kafkiana, che queste donne debbano avere a che fare con mille passaggi nel rispettare anche alcune regole, a parte la burocrazia, anche alcune regole non scritte, ma diciamo che si tramandano solo a parole, su chi debba avere la voce in capitolo. Sì, certo, ma questo aspetto burocratico io ho cercato di raccontarlo un po' in chiave surreale, comica, perché poi invece se si fa, come dire, con un intento realistico è un po' da suicidio. Ti piangeremmo, ecco. Esatto, cioè è un po' pesante la faccenda. Quindi insomma l'ho buttata appunto su alcuni aspetti, come dicevo prima, surreali, perché poi le Marche, devo dire che sono grandi produttrici di comicità e personaggioni che possono essere narrati in lungo e largo con grande soddisfazione anche linguistica, per alcuni scambi, per alcuni appunto ritratti, bozzetti, eccetera. E la lingua è molto importante, perché non l'abbiamo ancora detto, ma sì, in questo romanzo ci sono qui e lì degli intercalari, delle frasi, dei suoni più che altro, delle assonanze marchigiane, che però sono assolutamente comprensibilissime anche per una come me, che marchigiana non è. Ecco, sì, tu hai giocato molto con la lingua. Sì, beh, io l'ho sempre fatto, però diciamo che poi nei miei libri di ambientazione più marchigiana, o con i primi personaggi che invece venivano dall'Abruzzo, da Pescara, quindi ci ho sempre giocato molto su questo. Devo dire che comunque sì, è comprensibilissima, perché si tratta poi insomma della parlata del centro Italia, quindi non è solo marchigiana, ma in realtà poi vengo scoprendo che alcune cose sono comuni all'Umbria, alla Toscana, al Lazio, ovviamente di nuovo insomma tutta la fascia centrale dell'Italia. Però devo dire che il dialetto dà sempre grandi soddisfazioni, perché è davvero come se fosse il deposito anche di concetti, di pensieri, di una visione del mondo, che poi quando è legata alla terra insomma è fortissima, perché da lì nasce, e quindi non potevo comunque fare a meno di questo strumento formidabile. A proposito del fatto che questo è un romanzo a cassetti, come dicevi tu, sì, c'è un certo punto compare questa storia apparentemente autonoma, in realtà molto legata alle vicende di Nadia e Olga, loro insaputa, della morte di questa Giancarla, avvenuta veramente anni prima, una donna trovata morta nei campi. Lei consegnava cappelli, aveva anche tre lavoranti che insomma non hanno una situazione molto molto serena, c'è l'ospedale psichiatrico di mezzo e così via. Come mai tu hai voluto inserire anche questo cassetto in questa storia a cassettoni? Beh, intanto perché a un certo punto, come si dice, tutto torna, perché è una storia legata poi a quella principale. Però mi interessava anche un po' raccontare la condizione delle donne di non troppo tempo fa, perché si parla degli anni a cavallo fra i 50 e i 60, quando appunto le donne magari potevano lavorare, organizzarsi con una rete solidale fra donne, anche se erano donne in difficoltà, con situazioni appunto anche dolorose, perché si tratta di pazienti di manicomio. E volevo raccontare anche però questo aspetto, appunto, anche un po' affrontare il lavoro delle donne seguendo anche alcune situazioni che stanno venendo fuori, per esempio dalla riapertura degli archivi dei manicomi con la ripresa di cartelle cliniche. Quella è una storia parallela che sta venendo alla luce in questi anni, fatta attraverso proprio appunto le carte dei manicomi, che comunque produce davvero una storia alternativa, ecco, che non conosciamo bene. Grazie a Silvia Ballestra, ora in libreria con La nuova stagione, un romanzo pubblicato da Bompiani. Grazie Silvia. Grazie, grazie. I romanzi di cui abbiamo parlato in questa puntata, Ragazzo italiano di Gian Arturo Ferrari Feltrinelli e La nuova stagione di Silvia Ballestra Bompiani, sono due dei 12 candidati al premio Strega. E a questo proposito vi ricordo che ogni martedì sono in edicola con Il Sole 24 Ore, restano in vendita per un mese i romanzi che dal 2012 al 2018 hanno vinto lo Strega. Martedì 7 aprile è la volta di Il desiderio di essere come tutti di Francesco Piccolo, pubblicato da Einaudi. Ancora qualche segnalazione. Naturalmente i festival letterari programmati sono stati cancellati o rinviati, ma in questo periodo ci sono molte iniziative online. Per esempio, il gruppo Feltrinelli ha lanciato sui canali social, quindi Facebook e Instagram, di La Feltrinelli e di IBS, la campagna Leggiamo a casa. Un palinsesto di contenuti video, presentazioni virtuali, consigli. Fra gli altri, la prossima settimana potrete vedere Massimo Carlotto, l'israeliano Edgar Keret e Rosella Postorino. Il programma è disponibile sulla pagina Facebook di La Feltrinelli o sul sito feltrinelli.it. Ha cambiato data il festival Rovigo Racconta, che da maggio si sposta a fine estate e si terrà dal 28 al 30 agosto. Porta avanti il motto Rovigo Racconta sceglie il coraggio e lancia la campagna Io non mi fermo. Punta dunque sull'idea che siamo pronti a ripartire quantomeno, diciamo, con la testa. Su Facebook e Instagram di Rovigo Racconta ci sono video di scrittori e intellettuali che ci danno la loro idea di futuro e i consigli, anche pratici, su come affrontare appunto il futuro. Chiunque comunque può inviare un video con il suo contributo, con quello appunto che sa fare, per aiutare con stimoli e idee anche gli altri ad affrontare appunto il futuro prossimo. E anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate il podcast di queste e delle altre puntate del Cacciatore di Libri su radio24.it. Se volete potete anche seguirci sui social, siamo presenti su Facebook, alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri trattino radio24 e su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.